mia, adesso sto guardando a te. Dio davanti. Senti, ho capito la volta, mi ero avanti. Io sono qua sul TVO, come si chiama? TVO? Cosa? TV00, boh. Ah, tu me l'hai mandato, Luca pensa che delle belle foto, boh. Luca piace a due bimbi, lui pensa che delle belle foto, ma guarda adesso. Ah, tu puoi dirlo, già una foto mia e basta, no, mi ha mandato questa, con la tipa ero assieme, dai, con la mia ex, la siciliana, ma non c'entro più, non c'entro più. Già, ti avevo chiesto una cosettina. E il numero di casa tua, non posso mai disturbo adesso, no? Ti chiamo domani al limite, dai, che ti voglio dire, ti ho chiesto un'informazione, tu mi dai un consiglio tuo da fare o no, riguardo, vabbè, non posso dire qua. Chiamami al cellulare. Non posso chiamarti, ma io ti ho un ottimo, non vuole, tu paghi, molto paghi. No. Aspetta, io Nara. Allora, 738 19 67 146, ripeto, 338 19 67 146. Te segnale lascia quello che lascia desiderare. ma tu c'hai stazione base o veicolare? Thank you. trovo, nessun problema. Chi mi vuole trovare mi trova lì, non ci stanno problemi. Ovviamente si trova in privato, giustamente. Comunque io li trovo di fronte all'ippodromo, oggi c'era una gara, dopo lì ho tolto il pantino, l'hanno anche portato all'ospedale, si è fatto male. E niente, c'è notturno domenica che viene, c'è notturno qui all'ippodromo di Pinna, a Sasso. Se ti fa piacere, ci possiamo anche incontrare, ci beviamo un caffè e non ci stanno problemi già. Saluto Gianni Caramonti, Gianni. Lo Peru e tutti quanti i componenti, dai. Io Gianni Caramonti non lo sento, siamo saluti a parte mia, a Gianni. Sara Pazzo, ti saluta Gianni Caramonti, Giuseppe Leucino che stanno a trabaccare a Ghiero. Ciao Luci. Ciao Gianni. Va bene. Ma non è da niente. M1000. Perché ti delude? Fastidioso. pomeriggio, sono quasi arrivato a Cane Mosca, com'è il segnale lì? Cambia. Il segnale io lo posso levare al mio piacimento, ti posso tirare a 8, a 9, come voglio. Perché c'è quello che segnala il piacimento, come? Ma se ne intendi? Perché mi sono appiccicato circa accelerante? Quasi a 8. Insomma che non li voglio. Sono 37 chilometri, hai capito? 35 chilometri a zero, dai, partendo la scienza di sono 35 sono 70 al ritorno. So, vabbè, io sono arrivato qua quasi a Cane Mosca, come ci sta arrivando Gianni? Doppio RU da 6 a 7 modulà, da 6 a 7 10 K. E il mio pacchetto com'è? Ah, passaggio nello distratto. Ah, passaggio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sì, da 5, 6, 7, 5, 6, 7. Sono arrivato qua, quasi dove c'è la cosa di Cane Mosca, capito? Cambio. Va benissimo, radio Super 5, Leoncino, date una calmata. La conclusione e poi spiego perché sono faccio tardi, dai. Sto attento alla serata, dai, e vi ascolto. Cappa, dai, buon trabacco, buon tutto e buon rientro quando lo fai, vai Gianni per i saluti e rimane ascolto. E poi ci dà. Cappa, oggi ciao, va, ci sentiamo. Dammi un segnale di radio Santiago anche a me, già visto che ci sei. Annino, buonasera. Buon trabacco, fatti sentire, va. Già lo sai che sono in fede a capo settimana, va. Ok, avanti capi due, buonasera. Buonasera a tutti, siamo tutti, ciao Lucio, buona crisi greca. Mi stiamo ascoltando, mi bravo, ciao Gianni, ciao Falchetto e Tullio mi sembra. C'è un paio di Tullio. Ho fatto le ore piccole già ieri, quindi hai capito, avevo bisogno di riposo, riprendi, buonasera. Buonasera, ciao Gianni. Come hai detto che sta prendendo tutto? No, sto prendendo già solo la roba da radioamatore che non me ne faccio nulla, gli apparecchi di CB li tengo, di CB li sto prendendo quello, il Midila, da base, 40 canali, no, gli altri mi li tengo, in capita. E nulla avete detto, no, quelli dell'animatore già non me ne faccio nulla, non le accendo, sono sempre per il baracchino io, hai capito? Lui sono lupi di pacca, no, sembrano usciti uti dalla scatola, no, niente, non le uso, hai capito? Già l'ho comprato per uno sfido, ma per tenerli fermi li prendo. Capo. Ok, Falchetto, riprendi con la buonasera, ti rimetto il cambio, vai. Buonasera Gianni, buonasera dopo una marea, ben ascoltato, saluto a te quella familiare, tutto a posto già. Sì, la policchia, siamo in tour con la fisarmonica, un po' col pulma e un po' con la fisarmonica, e quindi qualcosa già la stiamo facendo poco a poco a recuperare i soldi che ci ho speso, hai capito? Non per il pullman, ma i soldi che ho speso, diciamo così, tra clima, palle varie, cambi di targa, tutte quei passaggi di proprietà, un po' di lavoro, qualche cosa, non molto la stiamo facendo, tutto lì, quindi, ieri notte eravamo in giro con la FISA, ci avevamo anche altre serate, quindi già, qualcosa già la stiamo facendo, non per me, ma per mio figlio, hai capito, poi io già vado bene sempre così. Ok, rilancio a Puglio con la buonasera, se mi sta ascoltando tra di lui le rimette il cambio, oppure se non riprende il Puglio riprenderà Gianni di Chiaramonte. Avanti Puglio, se ascolti tra di lui. facile propagazione, la ribatte. Discretamente pensa che copiamo il lucino da quando era detto per essere mosca discretamente. Quindi vuol dire che come ricezione sto andando bene, riprendi già. Ma questa antenna è la casa nuova, le messaggi. Questa era l'antenna, sto modulando da dopo, non ce n'è ancora niente, non abbiamo diviso gli appartamenti, hai capito? E abbiamo finito la porta, tre volte poi c'era un contenzioso tra mamma e la sorella, contenzioso, volevano comprarci la parte nostra, non l'abbiamo venduta e abbiamo finito la... No niente, abbiamo diviso già, abbiamo messo un po' a posto e nessuna antenna ci deve più alle mettere una, hai capito, non sai perché già, però fare molte volte sempre telefonando, hai capito, rompendo le scatole, ma non pure metto una gran play, c'è una gran play, quella che avevo prima già. Chiudo molte volte, sempre una cosa, gli lascio l'apparecchio al cielo per non stare facendo il numero, sempre telefonando, rompendo le scatole, quindi niente, ma non sarà per adesso. Hai capito, mettere un 23 canali e così, non ho messo nulla, non sto modulando la casa, non ti ascolto alla grande, riprendi perché? Poi sentivo anche tu una buona modulazione, un bellissimo segnale, sei una buona grande, cioè, complimenti, già va bene, dai, tutto qua. Va bene che va bene, sono contento del lavoro, tutto ok, anche se poco, e l'importante è la salute, tutto lì, riprendi già. Ok, io ti pagherò, perché ti ho speso soldi, cosa storia, per ripiegare l'appa, ti ho speso fuori 5.000 euro per mettere tutto in regola, solo di clima, 400 euro per caricare il clima, ti ho speso, guarda, poi e due batterie ci ho messo perché gli altri li ho viste che non mi fidavo, se sgarra una batteria ho detto mi rimane il mezzo, mi sono, cioè, tutto quello che c'era da fare gliel'ho fatto perché sono molto pignolo, e per il resto preghiamo la salute, preghiamo con la volta, ma adesso vi voglio fare una domanda, Gianni che sarà informato di Gianni Doppiolo, Gian Maria Figaro, come sta già? Ah, si è ripreso la tua giornata, stava modulando, si sta riprendendo piano piano, già grazie a Dio già la potete raccontare qualcosa che succede. E sono contento perché mi fa piacere, qualche volta mi facevano accesso così, c'era Claudio e niente, abbiamo fatto due chiacchiere, capito? È che da sera perché ero in casa, c'è anche festa lì a Caldeghi, io invece ero per due chiudi, non ci sono potuto andare perché ero in un altro CTH facendo una serata, e stasera c'è andato Claudio, lui con la moto, e quindi mi sono andato alle 7 già perché ero veramente stanco. Sono ricasato che erano le 4 del mattino e proprio pure dal caldo qui già non si dorme la notte, c'è quest'acqua che guarda non si riesce a chiudere gli occhi, quindi ho preso sonno stamattina e poi mi sono andato a mangiare, ho ancora poi mi sono buttato, l'ho trattato alle 7 di sera. Ok, e Gianni di Chiaranotti ti rimetto il cambio, andiamo avanti. Ok, va benissimo. Va bene. Ok, con la serie già in ferie sì, quindi. Io sì. Ok, a Pialatine, manco un giorno al mare già sono andato, manco un giorno al mare. Devo tentare di trovare almeno in due giornate a portare la famiglia così la mezza giornata e non arrivare tutto su, vado di mattina a presto e me ne rientro all'ora di pranzo. Un paio di giorni almeno a portare a Claudio, è così. Tu già ti diletti per la pesca, quindi già so che vai, già ti diverti. E tu qualche ti sei bagnato quest'anno? Buonasera a tutti, carai Ecci, non c'è nessuno? Ciao B2, ben sentito per verità. Sì, Gianni, sì, il mare io mi sono bagnato, ma poche volte quest'anno proprio per il discorso di stare un po' fermo, il mare l'abbiamo un po' lasciato a riposo. Poi del resto, niente, quando si può si va, quando no, pasciscia, tutto lì. E niente, dai, saluto anche l'amico che è andato adesso, una buona sera, la parte del pacchetto. Avanti. Buonasera, c'è di qua, c'è B2 da questa parte, che si accinge a tornare a casa da Sassari a Porto Torres. Buonasera a tutti. Buonasera anche a lei. B2 mi ascolta. Sì, io ti ascolto già. Ti ascolto. Anche Luca, Luca, non avete fatto rientrare più, Luca? Forza, dove lavoro? che ci sto trovando al mare. Magari al mare, magari. Vabbè, io sono anche in ferie, quindi. Non lavoro anche io, a volte sono occupato. Cos'è in ferie? Ecco perché l'ho visto un altro ragazzo il furgone. Sì, sono in ferie 2 settimane. Vabbè. Sta pagata. Cappe 2, beh, questo è prima, andando sta. Sì, ha preso anche un piccolo appalto, si può operare anche in piscina, insomma, se vitti, 2 volte alla settimana, fino a prima di Ferragosto. Comunque ha fatto quel rettizio a Vedichiaramonti, che lo saluto, e anche a Falchetto, saluto di buon tutto per domani. Già, è per poco deve andare, perché se rimane fermo è una cosa passiva, te l'ho detto, deve per poco, in qualche modo riuscire almeno a tirarli fuori i soldi delle tasse, hai capito? Diciamo, ricco non ci ripeto, perché c'è la crisi già, però almeno a cavare i soldi per supplire alle tasse. Capito. Tu vabbè, va, ti hanno poi mettere anche lì. Per lui lo faccio, mi dico, lo sai che io non ero mai d'accordo a comprare spuma, a fare, però proviamo a fare a farlo. Ho avuto le ricette, la regione adesso ha mandato le autorizzazioni, ci ho avuto anche per l'estero, però quello in estero già non c'entra, perché per entrare all'estero deve essere Euro 5, quindi per farlo entrare all'estero bisogna sostituire il tubo di scarico e costa 7.000 euro, però anche altri spuma di qua, per esempio Cattogno non c'entra, lo sapete che spuma sono, mi ha detto, perché le mai controllano proprio 6 euro 5 hai capito, un pullman moderno, e quindi all'estero non puoi, perché abbiamo proposto anche se facevamo una gita per Lourdes e io gli ho detto il pullman di Lourdes, hai capito, non è un euro 5, però nulla, vediamo di acquistare qualche altra cosa, il contributo già non lo prendo, se no avrei avuto il pullman, per il contributo, perché la regione me l'ha detto, se lo volevo, ho detto io non ne prendo perché vuole tornato, cioè lo torno. Fatto. Ok, poi per il resto già ci campiamo, bene o male, capito, già ci campiamo, non è che vogliamo di fare, però quella roba lì da fermo diventa passivo e se non troviamo almeno il coro a pagare queste collettine. E quando le metti in app fai il 3 già. Proprio ho fatto la revisione la settimana scorsa, ho fatto un calcolo di il 3 fa. Il rettilineo se lo sai mantenere può fare il 4, ma non crederti che faccia di più. Ok, ma questo lo sapevamo già da prima. E tutto lì. Del resto come stai? Saluti, tutto bene già? Devo dire sì, già. Sono in ferie, te l'ho detto, sono andato a pescare qualche volta e mio giravamo a mare tutto il giorno ad Anghero e Ottavio sta guidando. Sì, lo sto facendo guidare a lui, sì, gli ho fatto fare per cosa l'altro giorno, l'ho fatto prendere, siamo andati lì, dopo sono le piscine, perché devo andare alle querci, lì alle piscine, l'ho dato a lui, e poi faccio la scala di gioco, da lì ho detto non ci passare, perché lì già in salita mi farà l'uno se me lo fa pure, e nella salita, scala di gioco, me ne mangia le gomme, a pieno carico, questo fai la superstrada, fai via Milano, saliamo fin sopra, poi saliamo quella che come si chiama Perosi, non lui che è quella, l'ho fatto fare quella strada, l'ho fatto per il percorso, tanto sul Puma ci sono io, anche se non guido, e niente già, e il percorso è quello, bisogna che passi in strada dritta. Beh, bisogna guardare anche le spalle, eh. Che cosa fai? Porti la carta per questo, da dove li prendi? Da Ussi, da Mulos? I ragazzi di qui, del paese, i ragazzi che ho alle elementari, alle medie, hai capito, una cinquantina di ragazzi e l'anno scorso venivo un'altra ditta, adesso ci sono io, mi hanno invitato a me, ho fatto il mio prezzo, già è giusto il mio prezzo, è più conveniente perché il pullman parte da paese. Asolio per venire, poi per ritornare ovunque, il prezzo che ho fatto un prezzo conveniente, già giusto, e niente, facciamo giusto, diciamo, per buscare qualche spicciolo già, non per, capito, ricco non si riprende, perché c'è crisi e molta concorrenza già, gente anche che sta bruciando i prezzi, perché ho visto qua la gente che sta andando, sta bruciando prezzi che non viene bene, già questo anche secondo come va, non devi metterci la tasca, ma se c'è un autista, uno glielo detto, ho visto certi prezzi, però allora ho detto l'autista non lo fa, io vabbè, e mio figlio non voglio nulla già, i soldi li do a lui, non me ne frega niente, però se uno piglia un autista di fuori, lo deve pagare, lo deve, io a mio figlio lo devo assicurare, e quindi se uno va a cercare tutte queste cose, uno che fa certi prezzi, ho detto il fuori, quindi fanno non ridere, c'è qualche cosa sotto, non paghi l'autista, non so come la borsa, vuoi lavare, io ho detto, vuoi lavorare gratis. Infatti, io ti auguro di lavorare bene, porti lavoro questo pullman che esca, che diciamo che ti porti diciamo tanta fortuna, questo pullman che riesca a lavorare il tanto a mantenere a te e a tuo figlio. Infatti già, no, a me mi interessa che per lui, poi per me, già non mi accontento anche delle briciole per me, però abbiamo già detto, se fatti col piede giusto, lavoriamo bene. E qualche volta ho detto, bisogna anche dire di no, e qualche volta rintroverare, gli ho fatto un elenco, e perché ci sono gli assistenti da rispettare, non fare mangiare gente a bordo, non fare bere le cose alla fine, non salire con costumino bagnato, perché già nella piscina c'è il cloro, la selleria è impeccabile, te lo farò vedere, capito? E non voglio che mi creino danni in quello, soprattutto gli ho detto guarda queste cose, mi sto portando a Claudio, guardate queste cose, perché i ragazzi io ce li ho sulla scuola già e sono imprevedibili, già ci sono gli assistenti, però meglio abbondare che qualcuno di casa controlli, hai capito? Perché se no, ti ho detto, ma qui non li mette il comune i soldi, non per i danni, li mettiamo noi, tutto quello lì gliel'ho detto prima, ho detto, diciamo la prima, ho detto per non beneficiare dopo, se tu vuoi rispettare queste cose, che fai? Quello che ti dico lavoriamo bene, quindi non gli ho detto altro già. Ok, bene, capito, sono già le 11 e mi metto qualcosa addosso, già sono in pantaloncini perché sarà per arrivare Claudio con la moto, metto che sono le 11:20, 11:30 arrivato e quindi non ci ha preso chiave, devo aprire la porta, hai capito, e niente, perché non mi curico, però hai capito, quando esce con la moto già sono con quest'ansia, anche ieri sera anche ero fuori, ogni tanto telefonavo e sto in ansia già, ecco, già è prudente già, però sto sempre troppo ansioso, sono un bene mera, io vi saluto tutti cordialmente già una certa ora, salutami la tua signora, salutami a Marco, a Manuela, saluto a Luca, si nascondo, tutti gli altri amici che sono in ascolto su 10, chiudo e speriamo di sentirci ancora domani, magari se ci siete già, tanto ormai diciamo, come si chiama, di stare correndo, quindi tu mi hai sbrigato un po' di cosettine, e niente, per il momento vi auguro buona notte a tutti e a presto di sentirci, buone ferie già, se capita ci vediamo anche, ciao. Ciao già, fanno capitare, non c'è problema. Buona sera anche a te, dai. Ciao già, sì, intanto sono a Sassari, io mi trattengo a Sassari, dopo che scarico alle 8:30, fino alle 1:30 sono a Sassari, come si chiama, siccome si è buttato, c'è un'antenna simile a quella piccolina, la lente piccola che lo voglio fare, le voglio mettere quell'antenna, ma li monto il baracchino sopra, adesso vediamo già, perché mi devo arrampicare sul tetto, vedi, lui la voleva già mettere l'antenna per la radio, se c'è con un commutatore funziona il baracchino, però tutte cose che devo fare già, quindi se c'è il baracchino, è capito, così ci facciamo anche una casa. buonanotte a tutti. Ah, ciao Gian, ciao. Riprendi Luca, ci siamo.